E allora eccoci qui dagli studi di Radio Onda Rossa, siete all'ascolto dell'agenda, appunto Atti e Misfatti del martedì femminista e lesbico autogestito, e siamo in diretta appunto con Natasha Chertok, che è diciamo regista e interprete di questo interessante lavoro qui a Roma ci sarà questa sera e domani, Luce nell'ombra. Natasha, ci senti? Sì, ti sento forte e chiara. Okay. Ciao. Allora, quindi Luce nell'ombra è appunto un lavoro ispirato, diciamo, che comunque racconta, credo, visto che ancora non l'ho visto, io verrò domani, un po' della storia di Esther Hilsum, non so se si pronuncia così, che appunto era una scrittrice, scrittrice olandese di origine ebraica, insomma, che è stata vittima della Shoah, che ha deciso di non, diciamo, pur potendosi salvare, di non scappare e quindi di essere poi diciamo di partecipare a quella che era l'esperienza della deportazione, di quello che stava succedendo alla sua gente, alla sua famiglia, al suo popolo. E quindi come è venuta questa idea di raccontare la sua storia? Guarda, l'idea nasce nel 2010, io mi sono trovata a leggere per caso Iari di Etty Hillesum ed è stata una vera folgorazione. Stavo cercando un testo per un nuovo lavoro e appunto mi ha colpito tantissimo questa testimonianza, che è anche una testimonianza di una profonda evoluzione interiore che questo personaggio compie attraverso anche un percorso autoanalitico. Infatti il diario è anche proprio un flusso di coscienza di una persona che stava facendo un profondo lavoro su di sé e che, come hai detto giustamente tu, poi la porta a fare questa scelta molto, molto forte, molto radicale. Quindi leggo questo diario, mi innamoro del personaggio, decido di iniziare. Ho iniziato in realtà con un monologo, un corto teatrale che è stato presentato al Festival Donna Mostra Donna nel 2011 proprio qui a Roma, e che poi mi ha portato in realtà a voler approfondire ancora lo studio. Il monologo non mi sembrava la formula teatrale giusta per raccontare questo personaggio, avevo bisogno di trasformarlo in un dialogo, e così è nata questa collaborazione con Greta Marzano, Chiara Galdiolo, e che poi ha portato in realtà alla creazione di un collettivo teatrale che si è riunito proprio intorno a questo lavoro, e che è appunto Obsoleta Teatro, di cui fa parte anche Samantha Bifferale, Giulia Generali. Siamo un collettivo tutto al femminile e poi appunto partecipando al premio scenario abbiamo portato in scena questo primo studio adesso nel 2013, in aprile 2013, e questa è la prima, appunto, come dicevi tu, questa sera è la prima di questo spettacolo, ed è anche oggi il centenario della nascita di Etty Hillesum, che è una donna ebrea effettivamente, ma è prima di tutto una donna. Assolutamente mi piace ricordarla come una donna molto forte, una giovane donna di 27 anni che si trova a vivere questo periodo storico e che decide di viverlo in pieno, di non scappare, di non fuggire, anche se appunto lei avrebbe potuto nascondersi, avrebbe potuto trovare insomma documenti falsi, riuscire in qualche modo a scampare al suo destino, ma in realtà decide di percorrerlo fino in fondo. Quindi è assolutamente una testimonianza unica nel suo genere. E diciamo, io non ho letto i suoi diari, anche perché appunto leggevo un po', informandomi, leggendo un po' di cose su di lei, che i suoi diari, a differenza dei ben più famosi diario di Anna Frank, è uscito, è stato pubblicato solo una trentina d'anni fa, insomma, quindi una quarantina d'anni la fa. Prima pubblicazione infatti è solo negli anni 80, nell'81. Quindi in qualche modo, diciamo, non ha cavalcato, diciamo, l'onda, no, di questa, e quindi è meno nota. E mi faceva venire in mente però le cose che leggevo, un po' il personaggio di Simone Veil, no, perché lei ha anche questo forte senso del, diciamo, del cristianesimo in senso radicale, anche in qualche modo, che è molto interessante. Sì, no, in effetti è stata accostata a Simone Veil ad altri personaggi In realtà sì, mi piace pensare che l'accostamento a Simone Veil abbia a che fare quasi più con il suo lato politico, sì, e con la sua forza interiore che con diciamo l'argomento cristianesimo, perché in realtà il percorso interiore di Hillsum è un percorso sicuramente che la porta anche ad allontanarsi dal corpo, la porta ad un livello molto spirituale, molto quindi ascetico, quasi, sì, quasi mistico, mm-hmm, no? Un'ascensione che però è stata in qualche modo anche erroneamente, soprattutto negli anni 80 e 90, interpretata come un avvicinamento al cristianesimo, al cattolicesimo. In realtà la cosa interessante è che il problema, questo problema è legato molto anche a un'interpretazione dei suoi diari, della prima edizione dei diari, che è un'edizione in qualche modo troncata, perché erano sì e no 150 pagine. In realtà l'edizione nuova di Adelphi, che è uscita nel 2012, sono quasi 800 pagine, quindi ecco, è un discorso molto più ampio il suo, e dal quale appunto in questa edizione integrale si può evincere in realtà questo percorso che è molto più complesso, e che rende anche lo spessore di questo personaggio che va al di là assolutamente della religione, e lo rende assolutamente contemporaneo, molto moderno, molto al di fuori degli schemi. Anche per questo è stato probabilmente poco menzionato, mentre appunto Anna Frank è un personaggio più sicuramente interessante, ma più in qualche modo sfruttabile anche, certo, da una rappresentazione, no? Da un'autorepresentazione anche delle vittime della Shoah, tra cui i miei nonni, i polacchi, quindi insomma da mezza ebrea ne posso parlare anche in prima persona, per cui so bene che cosa significa, che cosa hanno vissuto. Però appunto Hillsum va molto al di là di questo, ecco, da una facile come dire rappresentazione anche vittimistica, se vogliamo, dell'ebreo che perde tutto, e parla di un discorso molto molto più ampio, e quindi a mio avviso molto più interessante e anche molto più vero, reale. Assolutamente, allora non ci resta che approfondire, grazie allo spettacolo appunto che verremo tutte sicuramente stasera o domani a vedere, che si chiama Luce nell'ombra. Dacci tu l'appuntamento, proprio lancialo, sì, orari, luogo. Benissimo, sì, l'appuntamento è stasera alle 21:15 e domani stessa ora al Teatro Tordinola in via degli Acquasparta numero 16. E se volete prenotare, tordinonapress@gmail.com. Benissimo, magari poi lo ripeteremo. Grazie mille per essere stata con noi, e così c'è merda, no? Esatto, grazie mille, grazie mille. A presto.